Buongiorno, sono Gigi D'Agostino e io adesso suono un po' di musica. Un suono per gli amici e per i parenti. Movimenti incoerenti. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Movimenti incoerenti. La differenza la fa chi balla. Chi non si muove è una palla. Movimenti incoerenti. Cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Benvenuti nel nostro giardino. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura. Ma la vostra mente viaggia sicura. Per amore, tutto per amore. Questo è il cammino della felicità. José María Escrivá. Ciao, sono Gigi D'Agostino, Tamarro Bizzarro. Un attimo di attenzione. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano Elettronico, discoteca 2 a Cigliano, vicino a Torino. Sono Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. una buona occasione per diventare tamarro. Questo per uscire dai casini e questo per cambiare i miei destini e fini. Dindini, soldini per i soldatini, cittadini, paladini, dei partici, i miei pugili. A colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla. Colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla, a colpi di macete si esce dalla giungla. Allo stato puro. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Muovi un po' la testa. Per piacere, prestiamo attenzione perché sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Il cammino di Gigi Agostini. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. I veri viaggiatori sono quelli che partono solo per partire. Baudelaire. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Costruisce la nostra cattedrale. Gigi D'Agostino ci augura buon Natale. Capito come? Musical mentale. Gigi D'Agostino, un DJ con le palle. Capito come? ovvio. Se ti senti sempre disposto ad essere conciliante, chiediti soprattutto cosa ti rende in realtà così indulgente. Una cattiva memoria, la comodità o la codardia? Schnitzler. Chica, quiero hablarte una mucha cosa. Tengo una barba muy pelosa, ma esto no c'entra. Quiero hablarte un'altra cosa. ¿Cuál es el nomiñolo de este programa musical mental? Chica, explícame el nomiñolo. Esto es. Chica, explícame el nomiñolo. Mira, no estoy aquí a acarezarme el chihuahua. Habla, chica. El nomiñolos. Esto es el camino de Gigi D'Agostino. Quiero saberlo porque este programa musical mental, ole, me gusta mucho más. ¿Y qué caso? Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatic, Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. La notte di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Capito? Gigi D'Agostino. Musica che unisce. La mixata, vai Gio. Ciao, sono Gigi D'Agostino e volevo salutare la mia mamma e il mio papà perché non li vedo quasi mai. Se vi siete messi all'ascolto, volevo mamma, papà, io volevo salutarvi, sono quel ragazzo lì che avete fatto un po' di anni fa. Pubblicità. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. ciascuno è in grado di comprendere e di apprezzare soltanto quanto gli è omogeneo. Ora, a chi è sciocco è omogeneo ciò che è sciocco. A chi è volgare, la volgarità. Al confusionario, la confusione. A chi è senza cervello, ciò che è insensato. E a ognuno piacciono più di ogni altra cosa le proprie opere. Come quelle che gli sono omogenee del tutto. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. E ti lamenti se hai dei nemici. O dovrebbero diventarti amici, coloro per i quali essere come sei tu è in segreto un continuo rimprovero. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. Paolo Coelho. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Il cammino. cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. È strano come molte persone difendano più i loro torti che i propri diritti. Khalil Gibran. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Gigi D'Agostino. Il momento è tremendo. Movimenti incoerenti. La notte di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20, se arrivi tardi ti rigo i denti. No, è sempre solo per fare la rima, perché... Capito? Costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Movimenti incoerenti. Movimenti incoerenti. State attenti. I maestri aprono l'uscio, ma tu ci devi entrare da solo. Un attimo di attenzione. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano Elettronico, discoteca 2 a Cigliano, vicino a Torino. Sono Gigi D'Agostino. A Piscia sta radio ti arriva in destro. Alle ore 18 suona il maestro. Devo leggere un aforisma. È meglio augurare buon Natale che cadere dalle scale. No, vabbè, a me sembra molto profondo come pensiero. Cioè, in apparenza sembra un pensiero molto banale, direi quasi stupido, ma poi invece invece se ci ripensi e cerchi il significato profondo di Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica bandetta. Quale troppi rispondono senza essere stati chiamati. Leo Longanesi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Immaginario è molto meglio di un amore reale. Non fare sesso è molto eccitante. Sì. Andy Warhol. No, poi dicono. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. La mia mente è smusicosa. Non intendo otra cosa. La mia mente è smusicosa. No, così. Don't

la delizia di pensare in due, di vivere in un mondo a parte, di non sapere se si è svegli o addormentati, se è sera, se è mattina, se il sole sta splendendo, di non sapere niente se non si è insieme. Susanna Agnelli. Piacciono i salumi e neanche la mortadella? Ascoltati la campanella. Era per fare la rima. No, comunque sono qui che sto lavorando, non è che mi sto grattando le mozzarelle. La notte di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20, se arrivi tardi ti rigo i denti. Voi devo dire una cosa? Auguri. Buon Natale. Cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Il cammino di Gigi D'Agostino. attimo di attenzione. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano Elettronico, discoteca 2 a Cigliano, vicino a Torino. Sono Gigi D'Agostino. Un viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. Why am I leading a lonely life? Can you feel the way I'm so tired? Do you need me to say goodbye? Don't forget about me tonight, 'cause my heart is not going to die. Just a love I could not deny. You will listen to me for. Mettiamo un po' di Natale in ogni giorno della nostra vita. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. We'll be right back. Gigi D'Agostino vi abbraccio forte. Buon Natale.